50, sono 500, 500. 50 euro di colonia, 550, 100 euro di alimentatore, 650 euro. Andava bene. Comunque c'è bene, hai visto dalla macchina? Non ho dubbio, c'è antenna, ci va bene sì. Però ci sono in vendita, non so come quella, ma non avrei capito, certo ci sono in vendita. Stavano vendendo il continente, gliel'avevano detto, non so. Gianni, rientrateci. Sì, io sì, sì, sono rientrato, se sono tutti andati e adesso non sono libero. Domani me ne devo bisaghissere, devo andare all'aeroporto, via. Che parte? Tua figlia? Beh, è passato il coronavirus, adesso deve partire. Si rientra a base e vabbè dai, ma anche a te presto, lo so, io mi alzo tutte le mattine presto, vado a Allende, io le sì, porto la colazione a mia figlia, tutto, poi porto la compagna, mi prendo la macchina, oppure vado da sola, dipende. Io domani alle 7:20 porto la salsa e quindi devo andare presto. Sì, vabbè, ti colpi un po' prima che a sera, non problema. Avanti, altro, hai visto questo contattore, bellino, no? Preciso, è quello che c'è per tuo babbo. Ecco. Che è questa voce, avanti? Paoletto Falcone. Come? Paoletto Falcone. Ma che Gianni, tu ci... Ciao Paolè, ciao dottore, già un giorno senza sentirti. E la calzetta dove ce l'hai? No, sono mutande, sono Paolè, vuoi sentire il goraccio sotto? Ciao Fabri. Cazzo, se non me lo dicevi Fabri, ho così mai riconosciuto, mi sembrava Daniele, Gianni Colletto, minchia cazzo, proprio un camionaro mi sembra, ciao Fabri. Ciao Claudio, hai detto non mi ha nemmeno riconosciuto. Ah, perché sto usando forse, va bene. Infatti chi su segnale, cazzo, no? Quasi 9.50, giusto, ma è l'ora buona gare. Sì, anche qua è 9.30, ma dalla radio non l'avrei conosciuto Fabio. È proprio con l'ecco, bello, corposo, fortissimo, cazzo, minchia. Ma questo è quello che hai fatto tu, eh? Ehi, che ce l'avevo fermo, era lì fermo. Ho visto, aspetta che l'accendo per vedere se funziona ancora. Già funziona ancora, era spento da un po'. Entro così forte perché Paoletto entra così forte sempre, capito? Entra così perché vuole giocare. Ma è regolabile l'ecco, Fabri? Sì che è regolabile. Abbassalo appena appena. Allora aspetta, dovrebbe essere questo l'ecco. Allora, vediamo un po'. Così si è abbassato o si è aumentato? No, abbassato appena appena. No, ma non lo farò abbassare di più, non già, che è troppo bella così. Allora la lascio così, io mi sembra l'avevamo regolata così l'ultima volta. Va bene, dai, adesso va bene. Sì, l'ho regolata con me, va bene così. Perché ho visto dei puntini, avevo fatto. Poi, va bene. Ma Paoletto che fine ha fatto? Adesso la pensione, ho cresciuto il naso come mio padrino. Fabri, sapessi. Sta venendo a farti il gioco della colpa. Adesso col telefono azzurro, Questo. Lo trovi lì da Decathlon. No, no, da non si chiama. Sì, va bene. Dove c'è? Carrefour. Adesso dice che è col telefono azzurro. Dice che c'è quei numeri speciali, fa tutti quanti queste cose. Ma chi ha letto? Oh, io ho visto con Antonio Grode lì al Tanit. Ecco, avanti il break. Capo, buonasera a tutta la ruota. Capo, buonasera anche a te. Un bulldozer. Capo, buonasera a tutti. Ciao Massimiliano, buonasera anche a te. Avanti. Gianni, riprendi, doppio ru. Ciao Massimiliano, mi hai sentito? E dove sei? A casa? Dove essere? Sì, a casa. Guarda, ero di passaggio qua e stavo controllando se era tutto a posto, là. Kappa. Infatti non stai più accendendo, non ti ho più sentito. Sì, vabbè, là, ogni tanto così accendo, giusto, per vedere il funzionamento se è tutto a posto, là. Ok, avanti. Ehi, tocca a poco, avanti, Eita! Grappa, buonasera Massimiliano, e beh. Ciao a te, buonasera anche a te. Grappa, tutto bene? Devo dire che non ti intendia. Ogni tanto già bussola. Grappa, qua sei 9:10 e Radio 5. Positivo, dai, allora già è tutto a posto. Boh, non ho fatto ascolto, ti c'è, ruota ancora, boh. 9:25, e qua c'è un picco di modulazione allucinante. Avanti Fabrizio. Ciao Cimia, ben sentito. Fabrizio da questa parte. Ciao Fabri, buonasera anche a te, dai. Va bene, sì, a posto, Luca, tutto staccato qua, solo di radio. La roba là a posto, sì, sta funzionando bene. Penso di sì, dai, io non è che lo uso, capito, Luca. Lo uso tanto, lo usa mia moglie, dai. Sì, per il momento sta andando, là. Attimino, secondo, adesso non lo so, forse la prossima settimana, no, questa settimana ci stiamo telefono quella là, dai. Gappa positivo, vi coraggio. Dai, riprendete, dai, sono qua. Davanti, là. Mi sono allontanato, ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato, dai. Dopo tanto, 9:05, Radio 5, qua si è arrivato, ultimamente bene. Avanti a chi tocca. Gappa, no, già è abbastanza, no, non c'è problema, io lo sento benissimo. Chi sarà che tanto tempo vede se sta ballicita, antenna, uia! È la bomba il po' che non ti sento più. Fabri, nel Fabrizio se ne si è sporcato, io ho staccato tutto perché sto staccando l'altra radio e quindi mi ho tolto quello lì. Ma se ha scongelato l'antenna Massimiliano. Guarda, Anto, stavo mettendo un po' in ordine qua, diciamo. Ho detto adesso accendo un po' là. Oh, vi ho sentito, se ho voluto entrare a salutarvi, va tutto qua. Era anche per provare se era tutto a posto là. Ma mi state confermando che è tutto a posto, quindi tutto roccia. Sì, mira, aiuta, hai scongelato l'antenna, un po' più freddo. Esiste, congelato. Aspetta a vedere se è tutto a posto. Ma stai usando la mantova? Anto, guarda, questa qui è la mantova, guarda. È una bomba, Dai. Cambiato, va. Che suga, smarino che male. Ci credo. Ma fa bene varia. Quello, lui, è quello che avevo provato io a casa, ma aspetta che si amplificano le... Mamma mia, è tanto bomba, ragazzi. Ciao, mi Massimilia, tre volte da Giuseppe. Scusa, Cla, ero tutto incasinato qua. Ascolta, era 9:05, quant'è il suo marito, da te? Me l'ha ascoltato anche a te, Cla. Cazzo, sì, sul più, vai a battere sul 3, allucinato, la sogna signari. Immagini di no, che era 9:05 modulato, è andato a 9:25 modulato, fatelo conto, vedi tu. Non sento nulla, è bella radio, sono rimasta tale da prima adesso. Il lineare satura, sul lineare è una bomba, no? Ma stai scherzando, quello lì è un transitorizzato, lo stato solido, tetto proprio bomba, è bello esteticamente. Molto molto bello e funzionante, poi avete quattro voci, no? un gioiellino quello. Ma chi è l'RM Italy? Allora, numero uno, la marca migliore in assoluto al mondo per me, non ce n'è per nessuno. Poi l'ho stato solido e c'ha i finali a mosso e te cazzo, una bomba. Gappa. E io come ti arrivo di segnale, Massimiliano? Sei 9:05, anzi Radio 5, perfetta. No, l'unica cosa che mi sta accorgendo, Cla, sai che cosa è? Che c'ho il QRM a 7, boh, l'avevo preso Bagosia, eppure io qua QRM non ne avevo mai. Adesso boh, a 7. Io non ci sia il amplificatore antenna inserito del lineare. No, niente, tutto aspetto adesso. No, non ne ho io, Massimiliano, perlomeno qua io QRM non ne ho. A uno, ma sa c'è, non so se c'è QRM, non tu QRM? No, Santiago 2 ne ho, poco. Aspetta Massimiliano, là caro il casino che fra poco provoia, vedi quanto d'arrivo da te. Qua lo stesso, niente QRM, basso, nulla, zero, proprio come... Infatti poco fa c'avevo un po' di QRM, così poi sto in un tratto, silenzioso l'apparecchio, il tubo, poi è successo, e niente, non c'è QRM, non ne ho io, zero. A a volte lo fanno anche le pompe di calore, pompe di calore attaccate c'è, ma ci vediamo. No, no, negativo, ho già, qua andiamo tutto a pellet. E segnale mio, come vedi da te, Massimiliano, adesso? 9.20 sei qua. Scappa, adesso c'ho un'altra antenna, non ce l'ho più quella. Guarda un po' il mio, Massimiliano, adesso ho 5 watt, 6 watt, guarda un po'. 6.9, modulato 9.5. Tu c'ho un picco di modulazione allucinante, cazzo, cioè, eri in mezzo tra il più e il 3, allucinante. Ma io sto andando con mezzo... Vabbè, già lo sai, la radio sto usando, però... dico, adesso sì, vabbè, sì, ma poi come fa? Il segnalone. No, ma te la colore è una guerra. E comunque già l'avevo visto, là, quell'apparecchio di Massimiliano, bello, cazzo, lui sì. Sì, quello sì che funge. E poi non consuma neanche, è vero? No, zero completamente. Vabbè, non è a valvole, capito? È trasistorizzato, quindi non consuma nulla. Stavagava, stavagava. Vediamo un po', Fabrizio c'è ancora? No, sono in altra frequenza. Appa, apparenta Massimiliano, come arrivo a quelle parti? Non è aumentato molto, sei quasi 9.10. Solo? Ma mazzani in varia, cazzo. E pompende voce. Boh, non lo so, Anto, così mi segna questo smitterino, poi non lo so. Gava, gava, avanti qua. Guarda a me adesso, Massimiliano, come arrivo di segnale? Sul 30, sì. Cazzo, va bene. Ehi, quelle zone non sono mai stato favorevole. Ma 9.10 è un buon segnale, Anto, va benissimo, dai. 10 punti ha aumentato. Cazzo, già. Non è poco, no. Già funge. Interessante che ci sentiamo, che abbiamo una radio che si fa capire, poi segnale, lascia il tempo che trova. Infatti. Importante è partecipare, là. E io adesso lo da un bel po' se faccende. Fatela scaldare, Massimiliano. Voglio entrare un po' di corrente e poi ne metti di nuovo a riposo. Dava già. Ehi, sono rientrato, Chi c'è? Qui Massimiliano è entrato. A me giù dalla 25 mi si è capotata l'antenna, Massimiliano. Non lo so, cazzo, ne ha tirato un vento. Ma è arrivata apposta, non mi sono buio, questa si è capotata. Si è rotta. Oh, un lamierino si è piegata. Devo sapere anche i tiranti per non. Insomma. Per non succedere quello se pigiato a stessi. Avanti fra. E mi è entrato Massimiliano. Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato, dopo di tanto, mi fai sentire ogni tanto. Ciao Fra, buonasera anche a te, me l'ha ascoltato. Mi ascolti bene, sì? Sì, con le orecchie. Tutto a posto, vi ascolto bene tutti, dai. Kappa, già va bene, dai. Riprendi Luca. Ma io dico sempre la radio che conta, ragazzi, la segnale ce la può pigliare anche come te possa, ma va bene così. Avanti, Claudio. Claudio non c'è. Gianni, riprendi. Diciamo che un po' tutti e due contano, anche se tiro di buone la portante non lo passi, se invece c'hai più watt col segnale passi. Vabbè, ma la radio che vuole contare di più è da segnale. Senza un po' di dubbio, se c'è la radio può avere anche segnale 1, ma è interessante che ti ascolti. L'antenna è la posizione. Poi se uno vuoi passare già, prendi, ti faccio una telefonata o passiamo. Sì, ma infatti, basta che vai sotto con la macchina, non passi. È a Londra. Buttate che non ti muovi i rocchi, non si sa mai se incendiamo parecchio. Ma cosa? Cosa va? 1500 va. Fregate, che io quando dormo. Vabbè. Meglio parte a tu. Antonio, come è? Dora liquido, do. Do. Antonio, liquido la pubblicità, dora liquida, do. Dato la gaimata, mi consuma curante chissà cosa. Ma non che ne fare un fuoco, usotto. Questa madonna, una volta Massimiliano la manda, sì. Mica la luce è aumentata, fate da bravi. Qua giù della tabella del sconto, ma se è balla, Sono Lucia, è da te. Allora che abbiamo pagato di luce, la tari, 45 euro. 45 euro, Aggiungi di un po' di zeri, 450, non ho pagato io. Ma qua abbiamo pagato così. Massimiliano, buttate un telefono. Aspetta, non so se c'è... Ah sì, aspetta, ce l'ho qua. Infatti se possiamo ma mozzere. Come mai tu paghi di meno? E lei paga di meno. No, io a me mi ha raddoppiato il conto. Ah, noi è arrivata la fritta, allora a pagare 100 euro. Pagavo sulla 78, ho pagato 110. Chi è che ha parlato? No, scusa, forse ho parlato io sopra Gianni. Ho detto se la trova compagno. No, no, io. Che tanti che siamo le mutande? No, no. Massimiliano, deve cambiare poi. Non fa, mi tengo questa che va giù. Però, te la vita. E beh, cazzo, secondo te? E a te culo una faccia, cazzo, ti mandai in coma profonda. Un cacciolino. E si mandò anche a Gianni, aspetta. Cacciolino da giù compreso. Va bene, dai. Comunque, ragazzi, del resto tutto a posto, sì. Ah, a Bappo e allora tutto roccio, va bene. Ehi, Massimiliano, io sono ancora in quarantena. Domani faccio il tampone. Però quello senza lenticchie. Se sono negativo sono libero, altrimenti mi devo fare altri giorni in casa. E a me ho tanto mi passiamo tutto questa cosa. Taglio le balle intera, vi credi, mamma mia. Vabbè già esco a portare il cane, mo sta massiggiata. Ti credi che do corretta eti, mo con la mascherina ovviamente, mi copro bene. Tutta cosa di eti, ma anche no. Vabbè, però dovresti stare. Vabbè, il cane chi me lo porta? Mia madre non ce la fa. Chi me lo porta il cane? Mi serve con loro a portarmelo. Non sono. Visto che sono positivo al Covid, come dicono loro, mi devono fare il tampone loro, non me lo devo pagare io. Beh, un gattetto, non voglio pure a lungare. E mi sa che pongo un gattetto, e vabbè, cagiamo ti fermo, il gattetto pongo un tubulo. Un gattetto era attaccato, bebe. Io, vabbè, guarda, io domani mattina alle 10:15 sono lì, faccio il tampone, sono negativo, la prima cosa che devo fare è andare al dentista, lì sarà la prima cosa che devo fare. Da poi proseguire tutta la mattinata, faccio un bel di impegni, un bel. Vabbè, dai, speriamo che sia tutto a posto, dai. Avanti, California. Avanti, che c'è arrivato qua? Claudio, ci siamo qua? Va, sono tutti spariti. Andame, oh ragazzi, vi lascio, grazie di tutto, grazie dei controlli. Ci sentiamo il prossimo anno, là. Ciao. C'è la macchina, scusa che c'è la gente. Ci sentiamo, saluto a casa, ciao. Tanto Massimiliano, qua stiamo vendendo una pala cingolata, tutta rugginosa. Pala cingolata CAT 953, in ottime condizioni, oddio, tutta rugginosa. Del 1889, cazzo, 1890. 1989, 18.000 euro. Non è rugginosa, no. È rugginosa perché è ferma, sì, l'ho vista. Ma sono buone quelle lì, capito? Sono ottime. Comunque io sto vendendo un Tornado 4500 modificato Colt, ti interessa mi manda un messaggio se lo ce lo porta via. Va bene, dai ragazzo, grazie della chiacchierata e di coraggio, dai. Ma questo è? No, questo lo sono. Mandami la foto del Tornado. Bello, bello. Cavolo. Il Tornado è bello, sì. Perché mi lamenta assai, ma mi sembrava mandato l'altro, però vabbè. Tu come andavi la foto? Gianni, hai visto le foto che ti ho mandato? Io non ho capito chi è. Chi è? Ma qui la conosci. Vabbè, stavi. Aveva il vento a poppa, c'è le poppe al vento. Eia, a poppa. A poppe. E via per carità. Progalidade. Gappa. Stavo guardando quello che mi aveva mandato tutta là. Sporcaccione. Lasciamo andare anche a Fabrizio, aspetta. È una volta che mi stavi sblatterando, Fabrizio. Stavo provando un attimino. È troppo forte a regoli. Ma penso che sia burba in me così, Quel baracchino già mi splatteri sicuramente, non lo so, ma un po' tutti mi splatterano. Qua arrivi 9.50 con l'apparecchio normale. Vabbè, siamo a Sassari vicini. Sì, assai lontano, Manchi l'ascolto, dai. Gappa. Dici che c'è un radio, va. Che no, che... Sì, guarda anche a Fabrizio. Fabri, guarda ti WhatsApp. Chi è? Gianni? Scaricati, aspetta, si scarica questo programma, si chiama Amigo Life. No, come di gente online, no, in diretta. Amigo Life. Amigo Life, sì. Quello che mi ha nato si chiama Fatta. Ah, ecco, è per andare un sito di incontri. Come poi ce ne fa due, eccetera, eccetera. Come mese? Non lì, capito, così la gente gli manda i regali e allora quei regali si trasformano in soldi. Hanno una carta, guarda e si prendono i soldi. Perché stanno lavorando lì, dai, si fanno vedere così, ma viene di peggio, nel senso che si mettono più scollati. Ah, ecco, sono di quelle che si fanno vedere così. Grappa, eccomi qua. Qui di Antonio. Di cosa? Di questa chat che c'è dove ci sono la donna che ci mettono scollate, eccetera. Ah, già visto qui che si gose, va passa. Ti fai prendi così. Vabbè, questo lo fanno proprio per soldi, capito? Non è che lo fanno perché. Vado in madina. Però se trovano gente come te che la guarda, si fa il show. Faccio un gruppo di madurinai. Non l'ho mai mandato, anzi, forse mi ha rimandato dietro a me. Già lo so già. Vabbè, ho conosciuto persone che la verità non me ne nego. Vabbè, io l'aiutavo a sistemare il computer da mettere un programma, gli aiutavo molto. Stavo ore e ore e ore. Io non volevo mai niente, poi mi spedivano qualche sullino. Grappa, a posto del programma avevo fatto quelli per una cassa a gola. No, assolutamente no. No. Assolutamente no. Luci, sì. Vai, aspetta che chiudo questo coso. Aspetta. Aiuto, gira. No. C'era qui, l'altro, dai, tutto non gira. Aspetta, ma sì, sono 27, aspetta. Cappa, c'è Cristian che chiama, avanti Cristian. Oh lui, scendi un attimo al 5. Ehi, Cappa. Boh, non lo sento, Gianni, ma sta parlando, che io non lo sento, Aspetta, già ci sono io, già ci sono. Cappa, ehi, Antonio. Già va bene, dai. Va bene anche quello. Ma solo che quel fatto che non ce l'ha fatto. Puzzinoso, grazie, è maledetto, è perché non è normale, capito? Tu lo devi mettere a 1000 watt, non ce l'ha la scala, 10, 100 e 1000 quel wattmetro. Ma cosa fa a metro? È un coso che dai due, compreso. Quello wattmetro, sì. Ah, però è del lineare, ho capito, là. È lo strumento wattmetro, lo stesso un po' del lineare. Ma quando è accordato bene che sta dando la massima potenza e così me. Così si faccia. Ma più di quello delle gambe. Già lo so, ci sarà un motivo, per giusto che è una cosa diversa, compreso, vai. È modificato. Ho capito. Cappa, eccezionale. Quelli Volvo X sono sempre per l'università a trovare le valvole, quando si consumano la trova non casino. Americana questa. Arrivando un attimo. A mangiare? Che ore sono? Sono le 18 e 50 e 51. Beh, io scendo giù che devo fare roba. Beh, ci sentiamo dopo, se ok? Ciao a tutti, ciao. Buone faccende, dai. Saluta la tua consorte, ciao. Ciao, vai. Comunque, Super Lem funziona bene, ma bene veramente. Sì, va bene, dai. Mi segnalo. Sì, Marco Ferragone è quella là. Poi, lascia perdere. Non ho mai creduto. Io Gianni, ma infatti, non c'è paragone con questa. È una subianetta. No, ma infatti non è stata l'antenna che andava bene, è che c'è truccata, due volte cazzo, sono salito a sistemarla, insomma, ho dovuto disturbare le persone, è un casino. Invece, se mette con questa direttamente avrei fatto una spesa unica e anche di meno avrei speso, 50 euro e mezzo. Lo so già, però a volte non ascolti, è giusto così, non dice io ci provo, c'è la briglia luce. Capito? Non è che siamo tutti a fare quello che ci dicono, anch'io so che un pocheretto fa i fatti miei, io con questa antenna prima di comprarla, prima di metterla, l'avevo comprata, prima di metterla ho aspettato, ho visto tutti i forum, ho visto tutte le cose, adesso sono più che convinto che è superiore alla Mantova e ha una resistenza al vento che va bene, capito? Però prima ancora non avevo capito. Aspetta, l'hanno detto, tu l'hai voluto sperimentare, vabbè, c'è la guida e luce. Con questa, adesso io ho trovato il fogliettino dove c'ho tutti i controlli e praticamente arrivavi 9.15 con la Game Master, 9 più 15 arrivavi liscio, adesso liscio c'è 9.20 già, quindi... Vabbè, qualcosa ha migliorato, e vabbè, sì, non sai cos'è, che noi eravamo fissati sulla matta, ma io volevo sperimentare altre antenne, volevo vedere come andava, ho sentito qualcuno, mi ha detto che era un'ottima antenna, questa è, però da me non ha durato tanto, forse perché anche la zona che è molto ventosa, la mia è... cavolo, non ce l'ha fatta il materiale anche, che è molto fino, io l'ho controllato, è fino fino il materiale, non è il materiale da pulire un'antenna. Lo so già, io quell'antenna l'ho conosciuta a casa di Cosio, di Sandro, quando l'ha giunta piazzata di dritta di Dorato, di Dorato da Natale a Santo Stefano, ma Cosio, lui ha durato da Natale a Capodanno, perché li ha aspettato in due il vento, no, un materiale che non serve a niente. Guarda, il materiale buono di quel tipo di antenne così, in vetroresina, in fibra, chiamiamola così, sono quelle della Diamond, quelle che usiamo noi, che sono dello stesso materiale, ma è molto più robusto, capito? A me mi è durata 10 anni sul tetto di quel materiale lì, capito? Vabbè, comunque, adesso hai fatto, non ci pensare più, questa è un'ottima antenna, funziona bene, segnale più che ottimo, vedrai che ti dà le ottime soddisfazioni di resa, nel senso che dura perché è fatta in alluminio ed è fatta bene. Qui c'è un pezzo di tubo di plastica che ha 160 euro l'antenna, ma l'antenna lui. Va bene così Gianni, hai fatto la scelta giusta, dai. Capo Cristian, avanti, avanti. Che cosa qui? Ma tu le hai controllate? Ah, la mini turbo, non la turbo, ok? La turbo 2001 è un'altra cosa. La mini turbo sì, va bene, ma dove ci sono ostacoli si blocca. Invece la turbo 2001 andrà a zero. Vabbè, sarà pesante quanto vuoi, però è un'antenna. C'è una mano, passo per la mano. Ho capito. Ma con la base magnetica? Ma non fissa ce l'ho, ma agganciata con una rita e capito? Vabbè. Quindi la sarà già come può. Vabbè, comunque. Vi siete conosciuti, vi avete bevuto un bicchierino, adesso sei contento, va. E tu sei simpatico, là, è simpaticissimo, dai. Non ti fa la mano simpatico. Meglio così, dai, sì, ma si sente che la persona come si deve. Avanti, Luca. Ma Luca ce n'è pubblico. Ciao Claudio. Ciao Cris, scusa che qua c'è il phone acceso, non capisco un accidente. Vai, parla tranquillo. Quindi già che appena smettono loro lo riprendo. Via. Cristian, dove sei adesso? Sono lì, alla quadratura di dove c'è la Spia Sauda. Dove c'è? La Spia Sauda, quella della foglia, vai. Capito. Dove sei andato adesso? Ha preso un'amica a fare un po' di spesa al volo a casa sa se ne saremo. Capo di Rosa, pensa per la niente. Andare, ma io me la so fatta venerdì la spesa e ci ho lasciato più di 100 euro qua. 60 da una parte, 70 dall'altra, infatti non trovo. Però ci voleva, là, ci voleva un po' di roba. C'erano anche i miei figli, io già frate, quindi ho dovuto comprare un po' di roba. Ma questi soldi non durano un capo? Con 50 euro non fa più nulla, è zero, vale 10.000 lire 50 euro di adesso. Quello no, perché io non fumo più, già da un bel po' di anni. Penso 12 anni se anche che non fumo. Sì. A mangiare una pizza già facciano due fessini. Oh, siamo all'ascolto, sto mandando un messaggio, scusa. Vabbè, ti spariti siete. Ah, fai un attimo, arrivo subito. Eccomi qua. Che me chi è? Cosa hai detto lui? Io sono qua, là. Non era in base, ma la pagina occupato. Ehi, non mi so, prendici di bene, lo c'è l'onga, è un casino Gesù Cristo. Non sente niente, vabbè, tu male lì senti, non sento niente. Non intendi? Non ho vento la rimoto a carro. Certo, non sente niente. Ma il trano a me, quello mi c'è santo, sente niente. Cosa? No, non ho capito, sai tu lo, Cristian? Ah! Vabbè, lo sento io. Anche il microfono lo sente. Forse non trovano bene quei commutatori lì, sono pesanti, commutano bene, io chiudomi da una radio all'altra, dal 430 al 140, allora c'è lo stesso canale, non entra manco il segnale, niente. Sì, ho visto, adesso massiccio, si sta ribaccavo da ammazza. Pesante, massiccio, buono. Costa poco, ma almeno un commutatore serio, ragazzi, compare 10 commutatori a 15 euro, non si viene a nulla. Ma quelli della OPEC vanno bene, costano una ventina di euro lo stesso, sono buoni. Io ho quello che è difettoso, ma con l'uso, quello Alan. Di Ala ci fa vedere il delta gira, ma te si cosa, no, quelli della OPEC vanno bene, quello lì, la Falcos, quelli commutatori lì che costano poco per commutare i baracchini, va bene, certo non puoi metterti a commutare radio se c'hanno più di 100 watt, vanno va bene, ma se commuti radio così, con potenze basse, vanno bene. Non so, quelli non si vanno a niente, no, quelli massicci, io mi ricordo ce l'aveva uno, la buona ma ritorna alla verde, che era bello, tipo il tuo, mi. Non mi sa che c'aveva più vie. Sì, regalato a Roberto io quello della Meritron americano a 5 vie. Elettronico però, è centralina sul tetto, già l'hai vista. E sotto poi c'era il commutatore. Con la presa attaccata a 220 elettronico. Ma mi si costa 300 euro il commutatore, bravo. Vabbè, costano, se li fanno pagare. No, a tu non riconviene, come ci sta le stacche attacca, anche io mi sto stacche attacca. Vabbè, stacche attacca per attaccare il rosmetro. Lo so, però si attacca e stacca, cioè fatevelo dire. Alla fine poi si stacca al puntale del PL, si stacca, ti manda in corpo, inizia a fischiare, inizia a fare, capito? È un casino. Anch'io quando c'avevo tutti quei baracchini in base, vintage, nell'altra casa, stavo attaccando, perché cattivo io ho commutato la VTV. E alla fine ogni tanto mi si staccava il PL, mi andava in corto, tira qui, tira là, capito? No, va bene. Le radio devono essere a posto, esistono i commutatori d'antenna, quando c'è più di una radio, commuti e tu sei a posto. Io adesso sto usando la linea 140, fa un po' commuto e me ne passo col 430, senza toccare nulla, non si tocca niente, non tocca. Così bisogna fare, che non devi stare a smontare che ti smonta, è un casino. Non fa, capito? Ci vuole un commutatore d'antenna, ma io ci sono un baracchino, non me la fucci nulla. Non mi interessa, il commutatore non me ne vuole nulla. Ma io quando è finito ridente ti voglio vedere un 430 di quelli magnifici, spettacolari. Un casino. E uno di questi avrei voluto, un 60. Poi l'alimentato le vanno bene quelli cinesi. Io l'ho preso da internet, quello là, è un bombo. Credimi, è un bombo, non mi manda, cioè ce lo manda a QRM come l'altro, era difettoso, quello me l'avevo regalato. E questo qua che c'è la Marina è veramente silenzioso, gli ho messo la resistenza. Guarda, un buon bo, fatto bene. Sì, se capita uno di quelli mi compro da alimentare tutti. Ma tu a me bene mi senti? Tra Dio. Modulazione mia, no? M60. Sì, ci sente benissimo qua. Beh, è la solita radio 2. Ma questo non è l'M60, è l'M50. E però Fabrizio l'ha fatto diventare 60. L'M50 te lo ricordo, è uguale a 60, ma non è amplificato. Fabrizio dentro l'ha fatto un circuitino di preamplificazione e l'ha fatto diventare MC60. Qui ci avevi scommesso? Ci avevi scommesso, ti mando la foto, cos'era? Non dico un valore. Io non lo usavo perché era normale, capito? Si poteva usare in FM, con le radio in FM, era in VHF, in UHF col processore. Allora amplificava, se no un microfono normale era a tavolo, ma a 60 se lo mette in culo, Sono questo microfono della Trio, il mio tempo è bellissimo, nuovo. Fabrizio l'ha fatto diventare 60 e spinge quanto a 60, né più né meno, uguale, preciso identico. Sì, no, va, cla, ci avevi scommesso, e ho anche perso. Non esce bene, cazzo, esce come bene. Ti mando la foto, guarda le mezzi 60, solo che anziché essere tutto grigio è beige, cromato, non è nero, il microfono è beige, originale, Trio Pimp, come le mezzi 60, preciso. Cazzo, bravo, esci bene, capito, esce bene. Volevo prendere, se non ne ho preso un altro di 1060, sono in due di 60, ma ci arriva un terzo, capito? E parlavo con Fabrizio, gli ho detto, sicuramente sarà qua in ascolto, non so se c'è un ballo, mentre si poteva fare il circuitino all'MC50, perché c'era anche lui 50, ce l'ha fatto. Non l'ha fatto a me, io non ho mai convinto vendere com'è, come non è, non mi interessa vedere. È un circuitino che si fa, certo devi saperlo fare, devi fare le cose fatte bene, non si vede nulla, è dentro, capito? È come 60, se tu abbassi la levettina lo fai diventare normale, se non vuoi amplificato tiri sulla levettina che c'è sotto, e questo è diretto, stesso circuito. Sì, no, qua esce ultimamente bene. E vabbè, poi la foto sembra un 60 panneggiato. Sono diversi colori, diverso colore, perché questa è la Trio Kenwood. Non è grigio, è beige, però c'è tutte le cromature, nuovo, cablato nuovo, ho fatto anche tutta la cablatura nuova, il cavetto nuovo, l'ho messo a farmi tutto revisionato. Ma tutto revisionato. Adesso invece cosa sto usando? Che sono uguali, cla. Il 60. E adesso vediamo, là. Vediamo più in là cosa fare. Ora come ora no, là. Ora come ora. Ma ti posso dire che apparecchio non prende manco colpi, cla, lo sai. Ma 430 che c'ho io era di una persona, abbiamo messo il filtro da poco, ma se te lo vedi erano da vetrina e a dire proprio a dire palle, guarda, ma nuovo, c'è già di nuovo, si turbo una vetrina con pareggio, lo vendi come te nuovo. E allora E allora, no, anche i due non ti graffiati, ti viene di più, guarda. Ma io li faccio anche il chiodo, me lo faccio con te, e faccio anche il chiodo. Allora, metti sopra la stufa a scaldare, lì in cantina. Questa umidità di tutto, così, ognuno ha quello che ha. Allora, grazie. Vabbè, mandi la pantera, e si tira avanti. No, perché, cioè, perché a Luca è difficile trovare radio così, questa è veramente nuova, trattata bene, poi era di una persona veramente che ci teneva sicuramente, nuova. Io ben Luca ando a pitteggia, chi sei bronco, mi fai un fischio, già ne ho sempre amici che mi propongono queste radio perché sanno che a me piacciono. quella che sto usando, però era la mia, l'ho venduta 5-6 anni fa, me l'hanno buttata a bacciambale la batteria tampone, che non teneva più le memorie, per chi non la trattava, ho messo la batteria tampone, che poi mi ha dato una mano a Fabrizio perché io non sapevo com'era, e quindi mi ha dato anche il portabatterie lui. L'ho chiamato per venire a prendere, mi hanno detto non la volia più. Come te non la vuoi più? No, la voglio bene, intanto non la lo però qui là, ho detto vabbè, io ho gli stessi soldi che l'hai pagata 6 anni fa, se ci stai, ci sto, va bene, me l'ho tenuta. Sì, sì, sì, cioè già si trovano le cose, la voglia. Quindi no, i burni. Sono Claudio. Tu Vanni. Era solo, sono Tommaso. Aspetta, aspetta, faccio una prova. Guarda sul segnale adesso, quant'è? Dimmi quant'è. Quasi 8 sì, Vanni modulato. E beh, prova. No, gna gna. Claudio, farlo via, Claudio, farlo via. E così, Vanni ha detto, guarda il segnale. No, fuori da più. Vanni. Aspetta, Vanni la bandiera. Ma è Fabrizio che fine ha fatto? Non lo so, tutti i spariti sono Antonio, Gianni, tutti i spariti sono. Poi si è spostato Massimiliano un attimino a fare delle prove. Dove sei andato? Massimiliano a fare una prova, dai. Mi ha fatto sentire un baracchino. Bravo, Poi non avevo QRM, niente, muto. Adesso ci devo correre. Allora Vanni, il segnale? C'ho il segnale, vabbè, la radio. Santiago 9, sì, però la radio è un po' sciattira. Prova. No, ne hai radio, aumenta. Allora, aspetta un attimo, mi chiedi ecco qui così al massimo, boh. Com'è? Ah, così va bene. Il segnale da prima a poi, cos'è? Punto S o due punti? Due punti, da 7 a 9. Sto usando il 507, Gianluca, non me lo ricordo neanche come si chiama questo. Poi che fuori potesse in più. Quello della testa G, 507, adesso me lo ricordo bene, ha aumentato a 220 volte. 507. Sì, allora, ancora funzionare, andare. Sì, è un po' che non lo uso, ma va bene lo stesso. Una bestia, una bestia. No, glielo va bene. La storia, va bene, funziona. Funziona. Allora, qui qua, 190 watt, 200 watt. Non so poco. No, già va bene. Neanche io ce l'ho uno così, ma non lo attacco mai. Quando c'è il Galaxy lo attacco ogni tanto e dallo stesso 200 watt, non di più. Vabbè, comunque. L'altro non capisco chi è. Vabbè, comunque questo. No, è anche un po' perché fischia, dove sta fischiando la battuta. Ma che cosa mi sta rientrando? Sì, qualche rientro, niente di particolare, andava. Sì, aspetta, c'è anche lei, c'è qualcuno, è un scherzo qua. Sì, sì, alla grande, l'altro è Luca, non lo senti? Sì, Luca, non lo sento. Io lo sento male a Vannino, Vannino, chi è Vannino? Sì, io. Adesso come questo è il chiuso. No, non lo sento. No, cioè, va bene. Ma no, questo è il chiuso, però, va bene, va. Non lo so. No, ma trasmette lo sanno, no? No. Sì, perché non penso l'altro. Sì, è chiaro. Allora, senza arrabbi. No, non è a questo grafico, perché era di una persona che conosci, l'ha tutta revisionata. È veramente molto bella, funziona davvero molto bene. Sì, a me ne dici. Ah, beh, io so, è sempre 140 che va bene, sì. Ma più che bene qua. Anche se ho 3 MC60, vorrei darne qualcuno in giro, ma se si trova bene, se non fa bene. No, la 507 già funziona bene, è un ottimo amplificatore. No, non è male, avevo cambiato il finale, quello che già riuscirà da fare. Poi in banda ne dà ancora di più, quindi ogni tanto già si finisce. Sì, ci vedremo tra tanto. Ehi, Ehi, Saluzzo, che vanno a Porto Torres? Da Sedini, addirittura. Che poco da dire. Comunque ti saluto, dai, Claudio. Sono entrato un attimino a salutare, che non l'avevo mai sentito. Da giusto, sì. Allora, se non andavo mi posso dove vuoi, anche a Porto Torres se posso venire, non ho problemi. Capa, no, io sono a Sassari. E allora, comunque, gli arrivi, portate a portare. Non ho mai capito perché nelle zone molto basse sono un po' più negativo, sempre nelle zone più alte arrivo più forte, radio compreso bagozza, vabbè, c'è la posizione. Ma è normale, che sei in alto stesso, ricezione alto, protezione, quella è una cosa normalissima. Capa, comunque già arrivo a Matessi. Ok, dai, io vi lascio, ci sentiamo alle prossime. Ciao, avanti Claudio. Ciao, Anto, alle prossime, dai, anche io mando il QRX, Vanni, che andrà a 7:30, faccio uscire il cane, metto qualcosa a preparare, dai, se ci sei, ci sentiamo dopo. Vabbè, dai, domani, non lo so, dopo domani c'è una stazza, ci chiamo, dai, dall'amico qui. Sei qua già acceso, Cla, lascia acceso, tanto già, se ci siete dopo, bene, se no fa nulla, va bene, tanto io fame ancora non ne ho. Ehi, no, tutto acceso qua, già ci sentiamo dopo. Gamma. Hola, c'è qualcuno su 10? Hola? Buonasera. Prova. E metti, e via. Mio, c'è un atto, va. Troppo, porto il cane. No, io... No, ma ci vogliamo un pezzettino di pollo, ti. Lunga com'è, la... Basta. Ma io... La domenica così, sono caro. Ti dicevo se ultimamente... La gente a proposito, ok. Vediamo tutto, ok. Adesso mi viene la spalla, la ciambra di botti, mamma mia. Vabbè, va male. Papà sarebbe poi. Ah, sì, senza dubbio. Chi è l'altro? State bella dieta, che dimagrite. Io non sento nessuno, E dove sei ora? Io non sento nessuno. Luca, svegliati il sonno. Cosa che non ti sento, dove sei? Sono solo. Non lo senti lui? Prova, Cristian. Mi senti Luca? Adesso sì. Ma bravo, mister, adesso mi senti da bene. Sì, vicino. Ma prima non ti sentivo, dove sei? Vicino a Doge, sei vicino a Doge, stai arrivando per basso. Vabbè, ma c'è poca spinta in quella radio, qua per basso, va, e tu la frusta nera. Io non ho premesso con l'acciaio, Epri. Non esce con l'acciaio, l'ho già preso. Se avessi avuto la basetta come la TLC 2000, 2001, ti avrei dato l'antenna. Non ce l'ho quella basetta io, purtroppo, ma... vabbè, dai, già adesso mi dico, sono venuto a 2001 per prendere, cosa magnifica. È buona l'antenna. Ma l'antenna, l'ho preso, l'ho preso. No, io la 2001 che avevo io, non è che l'ho trasferito. scritta sopra il canto. 10 bovarito. L'ho visto sul canto. Solitamente la gente ci viene a fare a fango dal fianco. Io voglio buttare sopra il tetto 100 cappotta. Hai fatto bene, lui cosa c'è da quella lì? Va bene, aspetta che c'era già l'impianto mezzo fatto, dai, diciamo. La basetta era già quella, c'era una PLC 800 se non sbaglio, e io l'ho cambiata, l'ho messo la 2001. Ehi, già va bene come te, ma voi da ce l'hai? Buscati la basetta, ti do l'800 di ora tra piazza, va molto meglio, eh? Ma già fatto un buco io in macchina, neanche se mi paghi oro. Sì, io dovrei fare. No. L'ho fatto io ho messo una tappa, eh. Se buco la cappotta, la metto sulla cappotta, la metto l'antenna io, al centro. C'è il contante del telaio. Vabbè, non è necessario bucarla. Ti buschi la base magnetica con l'attacco della PLC. In effetti, tutto c'è ragione. In effetti. Tanto noi non sapevamo la pressione di roba di magnetica, non è che sei tanto. Così è. Bucca. Ehi, sono qua. Ui, agatta. Andiamo. Certo. Eia. Io non tengo riserva, il servizio, cazzo. Sto facendo un vincino. No, sembra a bordo, sai, cazzo. Ma non tengo riserva a due, cazzo. Ascolta, io non tengo riserva, io mi chiamo solo Cristian e basta. Ma uscire. Andiamo. Ciao a te. Bene, qua. Bene, qua siamo. A posto. È tutto rego? Tutto a posto, facciamo già aperitivo con l'aria, aperitivo di cagnolare, aperitivo di salsiccia e formaggio, e poi fa un po' la tacabanda. Oh, Cla, hai letto il messaggio che ti ho mandato? No, è attivo, e io non ce l'ho mai vicino al telefono, altro che controllo per lei. Vabbè, quello lì è vero il tratto, no? Io lo vedo. Vabbè, come di manutenzione, capito? Poi un po' di zanzare, un po' di insetti. Se tu lo fai sintetico, vabbè, costa, costicchia, però c'è un'altra musica. Vai, Luco, c'è un'altra musica. C'è cosa più bella di fare manutenzione a un tratto vero, cosa è detto sintetico. Zanzare, insetti, ma io ce l'avete detto. Io l'ho fatto a maggio dell'anno scorso, ho chiamato la Mustop e ho fatto disinfettare tutto l'Ugannone, anti-zecche, anti-mosche, anti-zanzare, ho passato un'estate da favola. Adesso ci siamo già messi d'accordo, a maggio viene di nuovo e quello ha passato i gannoni con la macchina, tutto, dentro nel giardino, fuori dal giardino, nella strada, nelle scie, da tutte le parti. E tu sei a posto, guarda che Filippo non c'ha manco un antiparassitario, non riesce mai attaccato a una zecca in tutti gli sci, è trascinato nell'erba. L'anno scorso l'erba ce n'era poco, quest'anno già l'hai vista, perché ho seminato, quindi con l'acqua che ha fatto, adesso il fatto c'è tutto. Ancora c'è qualche punticino, ma poca roba, capito? Noi ne abbiamo fatto, quando sono andato a lavoro ne abbiamo fatto tanti. Hanno levato quello vero, troppa spesa, troppi insetti, ma è un memmi, costa, però la manutenzione è molto molto meno, va disinfettato una volta all'anno, mi sa, ma insetti con questo non teni bene, invece con questo, cioè, poi non lo so, quello dove siamo andati si lamentavano per quel motivo lì. Ho fatto il piano nuovo con la sabbia, poi ho messo il coso antivegetativo, non crescere l'erba, e niente, costicchia, però. Quando le facevano i miei soci quelle cose, forse tu eri ancora piccolino, le conosco bene, molto molto bene. Molto bene, però non ha nessun significato uno che ha un giardino come il mio fare il prato sintetico, la fagocia. Io a me piace lavorarci, se mai visto ho comprato la rasa erba, c'ho il decespugliatore, c'ho tutta l'attrezzatura, quando l'erba è alta, passo, raso, ma ti sto dicendo che io i setti non ne ho mai visto uno, qualche modo. mosca, sì, ma le mosche normali d'estate stanno al sole, ma io insetti veri e propri mi disegno, ma vuol dire che quelli sono zingari. Quando c'è il giardino, c'è il prato, ogni anno va fatta la rispettazione, antipulci, antizecche, antizanzare, mosche, di tutto. Io non ho mai avuto niente, figurati che io le zanzariere le ho messe a fine stagione, perché non ho avuto il tempo, perché avevamo il periodo di Ferragosto, capito? E quindi no, non me ne hanno fatte, ma le hanno fatte dopo finita l'estate. Adesso quest'anno ho tutte le zanzariere in tutte le finestre, quindi ancora meglio. Però ti ripeto, l'anno scorso a finestre aperte non mi appunto una zinzola, fuori nel giardino non mi appunto una zanzara, perché devi dare la medicina, altrimenti non fa. Ah, va bene il mio cuscino. Ottimo per la truppa. Adesso mi sta salendo piano piano. Se non piove in questi giorni do un'altra innaffiata. E via così. E poi le passo di nuovo la serra. Ciao Tino. Io l'ho fatto, però non ho durato poco, perché se lo faccio io non lo fanno gli altri, i miei confinanti. È un casino, capito? Quindi sono stato bene per una ventina di giorni, dopodiché sono ritornato alla carica. Per andare? E allora? No, noi lo facciamo tutti assieme. Io ho il mio vicino, proprio quello più vicino, lo facciamo assieme. Poi ci sono gli altri due che sono più lontani e anche loro lo fanno. E poi facciamo passare in tutta la strada, che è la privata, in tutta la strada la mostro questo cannone, spunta una parte all'altra. E non venne di zanzare niente, ti ripeto, io l'anno scorso con le finestre aperte ti dico che nonna mi appunto con una zanzara, nulla. Sì, io lo so, c'è un amico che lo fa, c'è Sandro Stefanini, un amico mio. Ma tu vai a campagna, te lo facevo il cannone, quello che l'altro te l'ho fatto, dammi un po' di medicina, lì con la chiusi tu. Te la faccio io, tanto se la fai solo a me, ma tu anche quello è vero, ma poi tu hai la piscina vicino, le zanzare ci sono, allora la metto in terra, poi i bambini in estate ci giocano e quindi devi stare anche attento come metti la medicina, quindi ho preferito fare le zone più critiche, capito? Forse Daniele Stefanini. Daniele Stefanini. No, ragazzi, non confondiamo, lo riconosco da bambini. Daniele è il fratello, poi c'è anche Pietro il grande. E Alessandro è quello che fa la disinfestazione. Ah, beh, io ce l'ho fatto con Daniele, con Alessandro. Pensavo che si sbaglia. Non sapevo che c'era un altro fratello che faceva prati sintetici. Sì, comunque ne abbiamo fatto un bel richiesti, poi vabbè, ognuno, sai cos'è, che questa gente magari non se lo facevano loro la manutenzione di quello vero, e allora spendevano molto ogni volta che chiamavano per farlo pulire e sistemare tutto. Poi molta gente ha preferito levarlo e mettere quello sintetico. Tu devi vedere la bellezza che va, cambia da giorno alla notte. Daniele, allora Daniele è il fratello di quello che sto dicendo io, non so che ce l'ha fatto, ti ho detto anche di salutarmelo, ci conosciamo da una vita. Alessandro l'altro, il medio diciamo, Se tu chiami a uno paghi, io me lo voglio ragione, il mio è un biliardo, la foto non si vede bene, ma se lo vedi dal vivo, hai quanto è lungo, quanto è grande, si vede anche il cancello, di lontananza, ma è grande, ed è bello perché io lo curo, ma dall'inizio l'ho curato, perché ho mandato solo il prato, poi giro in giro, ci sono tutte le siepi che ho piantato l'anno scorso, già sono altezza di a mezza altezza mia, sono già più di un metro, quindi piano piano stanno crescendo, ci vogliono anni per fare un giardino, non c'era niente lì, c'era solo terra, capito? Io ho iniziato a coltivare quel giardino da aprile l'anno scorso, quindi non è neanche un anno, però ci sto lavorando quasi tutti i giorni. Ho fatto anche la foto, non preso la erba, adesso non lo faccio io perché prima me lo prestavano, adesso me lo sono comprato, se l'ho tra le palle e chiedo le cose agli altri, non mi manca nulla, voglio tutto, devo fare alcune zollette e basta, capito? E boh, bene signori, dai, sono 8:30, io vi saluto e vado a cenare. Ok, ok, io me lo sono già preso, mi viene il bambi, eh. Ci sentiamo, se coincide a dopo, altrimenti alle prossimine, ciao. Ehi, va bene, ciao, dai, ciao, ci sentiamo, a carica. Vai Luca. Ehi, ciao Cla, buona carica, allora siamo qua, dai. Se c'è qualcuno io glielo lascio acceso, se no è tutto giusto e buonanotte, ma vedo la televisione. Allora, ma... Sì. Ma non è che mi sa che sta ancora facendo.